ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Undicesima puntata. Zina e Daria Petrovna, con le gonne rialzate fino alle ginocchia, le gambe nude, e Sharikov con l'usciere scalzi, con i pantaloni arrotolati, strofinavano il pavimento della cucina con stracci bagnati e li strizzavano in secchi sporchi e nel lavandino. Il fornello abbandonato rombava. Attraverso la porta di servizio l'acqua se ne finiva echeggiante dritta nella tromba delle scale e andava a cadere in cantina. Bormental, alzandosi sulle punte dei piedi, stava in mezzo a una profonda pozzanghera sul parquet dell'anticamera e parlamentava attraverso la porta accostata e chiusa con la catena. «Oggi non si riceve. Il professore è indisposto. Sia gentile, si allontani dalla porta. Ci sono scoppiate le tubature». «E quando riceverà?» insistette la voce di là dalla porta. «Mi basterebbe un minuto soltanto!» «Non posso!» Bormental passò dalle punte dei piedi ai calcagni. «Il professore è a letto e sono scoppiate le tubature. La prego di tornare domani. Zina, mia cara, asciughi qui, altrimenti si rovescerà sulla scala principale». «Gli stracci non bastano». «Adesso useremo i boccali», rispose Fyodor. «Subito!» Le scampanellate si susseguivano e Bormental ormai se ne stava nell'acqua con tutta la suola. «Quando sarà l'operazione?» continuava a importunare la voce e cercava in ogni modo di insinuarsi nella fessura. «Sono scoppiate le tubature!» «Potrei venire con le calosce!» Di là dalla porta apparvero delle silhouette azzurrognole. «Impossibile! La prego di tornare domani!» «Ma ho l'appuntamento!» «Domani c'è una catastrofe con le condutture dell'acqua!» Fyodor, ai piedi del dottore, si dimenava nel lago, raschiava il parquet con un boccale, mentre Sharikov, tutto graffiato, si era inventato un nuovo procedimento. Aveva arrotolato un enorme straccio a forma di tubo, s'era disteso con la pancia nell'acqua e dall'anticamera la spingeva indietro verso il gabinetto. «Che hai, demonietto, da farla correre per tutto l'appartamento?» si arrabbiava Daria Petrovna. «Versala nel lavandino!» «Altro che lavandino!» rispondeva Sharikov prendendo l'acqua torbida con le mani. «Tra poco arriverà alla scala principale!» Dal corridoio, stridendo, spuntò fuori una panchetta con sopra Filip Filippovich che vi si teneva in equilibrio con i piedi dei calzini blu a strisce. «Ivan Arnoldovich, la smetta di rispondere, vada in camera da letto, le darò delle pantofole!» «Non fa nulla, Filip Filippovich, sono sciocchezze, si metta le calosce!» «Ma non fa nulla, tanto ho già i piedi bagnati!» «Ah, Dio mio!» s'affliggeva Filip Filippovich. «Che animale dannoso!» esclamò all'improvviso Sharikov e se ne uscì camminando rannicchiato sui talloni con una scodella tra le mani. Bormental richiuse con un colpo la porta, non riuscì a trattenersi e scoppiò a ridere. Le narici di Filip Filippovich si dilatarono e i suoi occhiali si infiammarono di rabbia. «Di chi sta parlando?» domandò a Sharikov dall'alto. «Mi faccia la cortesia di dirmelo!» «Sto parlando del gatto! Una tal canaglia!» rispose Sharikov rifuggendo nello sguardo. «Sa, Sharikov!» gli rispose Filip Filippovich riprendendo fiato. «Non ho davvero mai visto un essere più sfrontato di lei!» Bormental ridacchiò. «Lei!» continuò Filip Filippovich. «È un autentico sfacciato! Come osa dire una cosa del genere? Ha combinato tutto questo e ancora si permette...» «Ma no! Lo sa il diavolo cos'è questa roba!» «Sharikov, mi dica, per favore», disse Bormental, «per quanto tempo ancora andrà avanti a dare la caccia ai gatti? Si vergogni! È una vera assurdità!» «Selvaggio!» «Ma che selvaggio è selvaggio?» ribatté cupo Sharikov. «Non sono affatto un selvaggio! Non è possibile tollerarne la presenza nell'appartamento! Non fa altro che cercare di sgraffignare qualcosa. Si è pappato la farcitura di Daria. Volevo dargli una lezione». «È a lei che bisognerebbe dare una lezione», rispose Filip Filippovich. «Guardi un po' la sua faccia allo specchio». «C'è mancato un pelo che mi cavasse un occhio», rispose minaccioso Sharikov toccandosi l'occhio con la mano nera e bagnata. Quando il parquet, reso scuro dall'umidità, si fu un poco asciugato, tutti gli specchi si furono velati per il vapore del bagno e le scampanellate si furono interrotte, Filip Filippovic, con delle pantofole di marocchino rosso, apparve in anticamera. Per lei, Fyodor. La ringrazio umilmente. Si cambi subito, anzi faccia così. Beva un bicchierino di vodka da Daria Petrovna. La ringrazio umilmente, Fyodor indugiò, quindi disse: c'è ancora una cosa, Filip Filippovic, anche se mi vergogno a chiederla, solo che bisogna pagare il vetro dell'appartamento numero 7. Il cittadino Sharikov ha lanciato dei sassi. Contro il gatto? Chiese Filip Filippovic rabbuiandosi come una nuvola. Veramente contro il padrone dell'appartamento. E quello ha minacciato di citarlo in giudizio. Diavolo! Sharikov aveva abbracciato la sua cuoca e quello lo stava cacciando via. Beh, si sono messi a bisticciare. Per l'amor di Dio, mi informi subito quando capitano cose del genere. Quanto occorre? Un rublo e mezzo. Filip Filippovic tirò fuori 3 monete luccicanti da mezzo rublo e le consegnò a Fyodor. Dover pagare un rublo e mezzo per una simile canaglia è davvero il colmo, si udì una voce sorda dalla soglia. Quando proprio lui... Filip Filippovic si voltò, si morse un labbro e in silenzio avanzò verso Sharikov. Lo sospinse in sala d'aspetto e ve lo chiuse dentro a chiave. Sharikov dall'interno si mise subito a tempestare di pugni la porta. Non ci provi nemmeno, esclamò Filip Filippovic con voce chiaramente dolente. Beh, questa in effetti è grossa, osservò Fyodor con fare significativo. In vita mia non ho mai visto un tipo così sfacciato. Bormental spuntò come da sottoterra. Filip Filippovic, la prego, non si inquieti. L'energico Esculapio spalancò la porta della sala d'aspetto e da lì si udì la sua voce. Che sta facendo? Pensa di essere in una bettola? Proprio così, rincarò Fyodor. Proprio così, però bisognerebbe dargli una sventola. Ma che dice, Fyodor? Borbottò tristemente Filip Filippovic. Mi scusi, mi dispiace per lei, Filip Filippovic. No, no e poi no, proferì con insistenza Bormental. Favorisca metterselo. E poi che altro, per Dio? Bofonchiò Sharikov scontento. La ringrazio, dottore, disse Filip Filippovic affabilmente. Ormai mi sono stufato di fare osservazioni. Comunque non le permetterò di mangiare fino a quando non se lo sarà messo. Zina, porti via la maionese a Sharikov. Come sarebbe porti via? S'afflisse Sharikov. Adesso me lo metto. Con la mano sinistra coprì il piatto per sottrarlo a Zina e con la destra si cacciò un lembo del tovagliolo dentro al colletto e divenne in tutto simile al cliente di un barbiere. E con la forchetta, per piacere, rincarò Bormental. Sharikov emise un lungo sospiro e si mise a infilzare pezzi di storione nella salsa densa. Mi berrei ancora una vodchina, dichiarò con intenzione interrogativa. Ma ancora, non le basta, si informò Bormental. Negli ultimi tempi ci sta dando un po' troppo dentro con la vodka. Le dispiace? Si informò a sua volta Sharikov e lo guardò in tralice. Dice stupidaggini, si intromise Filip Filippovic. Ma Bormental lo interruppe. Non si inquieti, Filip Filippovic, ci penso io. Lei, Sharikov, dice una sciocchezza e la cosa più sconvolgente è che la dice in modo perentorio e categorico. Certo che non mi dispiace per la vodka, tanto più che non è nemmeno mia, ma di Filip Filippovic. Fa semplicemente male alla salute. Questo è uno. E il due è che comunque, anche senza vodka, lei si comporta male. Bormental indicò la credenza rappezzata. Zinuscia, mi passi per cortesia ancora un po' di pesce. Nel frattempo Sharikov si era allungato verso la caraffina e guardando di sbieco Bormental si era riempito un bicchierino. «E bisogna offrirne anche agli altri», commentò Bormental. «Così, prima a Filip Filippovic, quindi a me e per finire a se stessi». La bocca di Sharikov fu sfiorata da un sorrisetto sardonico appena percettibile e questi si mise a versare vodka nei bicchierini. «Qua da noi sembra di essere sempre una serata di gala», disse. «Il tovagliolo qua, la cravatta là, e poi scusate, e per favore, merci, ma che le cose siano come devono essere, è impossibile. Vi tormentate come se ancora ci fosse il regime dello zar». «E come dovrebbero essere le cose, se posso saperlo?» Sharikov nemmeno rispose a Filip Filippovich, ma sollevò il bicchiere e disse: «Beh, mi auguro che a tutti...» «E anche a lei», ribatté Bormental con una certa ironia. Sharikov si versò la vodka in bocca in un sorso, fece una smorfia, si portò al naso un pezzetto di pane, lo annusò e quindi lo inghiottì, col che gli occhi gli si riempirono di lacrime. «L'esperienza passata», proferì all'improvviso Filip Filippovich parlando a scatti e come distratto. Bormental lo guardò di sbieco stupito. «Scusi?» «L'esperienza passata», ripeté Filip Filippovich e scosse amaramente il capo. «Qui non ci si può far nulla, è Klim». Bormental, con uno straordinario interesse, fissò Filip Filippovich dritto negli occhi. «Lei suppone, Filip Filippovich?» «Non c'è niente da supporre, ne sono convinto». «Possibile», cominciò Bormental e si fermò, storcendo gli occhi in direzione di Sharikov. Questi si accigliò sospettoso. «Aspetta, dopo», disse a mezza voce Filip Filippovich. «Gut», ribatté l'assistente. Zina portò il tacchino. Bormental versò del vino rosso a Filip Filippovich e ne offrì a Sharikov. «Non ne voglio, meglio che mi beva della vodchina». La sua faccia era tutta unta, la fronte gli si coprì di sudore, era diventato allegro e Filip Filippovich, dopo il vino, prese anche egli a rabbonirsi. Gli si rischiararono gli occhi, sogguardò con maggior benevolenza Sharikov, la cui testa nera se ne stava posata sull'ampio tovagliolo come una mosca sulla panna acida. Bormental, invece, rinfrancato, rivelò una propensione all'azione. «Allora, che combineremo noi due questa sera?» domandò a Sharikov. Quello strizzò gli occhi e rispose: «Andiamo al circo, è la cosa migliore». «Ogni sera al circo», osservò Filip Filippovich bonario. «Secondo me è piuttosto noioso. Al posto vostro andrei almeno una volta a teatro». «A teatro io non ci vado», ribatté ostile Sharikov e si fece il segno della croce sulla bocca. «Il singhiozzo a tavola rovina l'appetito ai commensali», comunicò macchinalmente Bormental. «Mi deve scusare, perché precisamente non le piace il teatro?» Sharikov si mise a guardare attraverso il bicchiere vuoto come se fosse un cannocchiale. Rifletté e sporse in avanti le labbra. «Beh, roba da fessi. Parlano. Tutta una controrivoluzione». Filip Filippovich si appoggiò allo schienale gotico e si mise a ridere in modo tale che nella sua bocca luccicò la chiostra dorata dei denti. Bormental si limitò a scuotere la testa a destra e a sinistra. «Dovrebbe leggere qualcosina», propose, «altrimenti sa». «Ma certo che leggo», rispose Sharikov e all'improvviso, rapido e rapace, si versò un mezzo bicchiere di vodka. «Zina!» si mise a gridare inquieto Filip Filippovich. «Porta via la vodka, bimba! Non serve più! E che cosa legge lei?» All'improvviso nella testa gli balenò una visione. Un'isola deserta, una palma, un uomo con addosso una pelle d'animale e un berretto. «Bisognerebbe fargli leggere Robinson. Quella... come si... corrispondenza tra Engels e quel... come si chiama, diavolo? Konkautsky». Bormental bloccò a metà del suo percorso la forchetta con infilzato sopra un pezzo di carne bianca e Filip Filippovich rovesciò il vino. Sharikov nel frattempo si ingegnò e riuscì a inghiottire la vodka. Filip Filippovich appoggiò i gomiti sul tavolo, guardò fisso Sharikov e chiese: «Mi permette di chiederle che cosa mi può dire a proposito di quello che ha letto?» Sharikov alzò le spalle. «Che io non sono d'accordo». «Con chi? Con Engels o con Kautsky?» «Con nessuno dei due», rispose Sharikov. «È sorprendente, lo giuro davanti a Dio. E lei per parte sua che cosa proporrebbe?» E che c'è da proporre? Quelli scrivono, un congresso, certi tedeschi, ti scoppia la testa, prendere tutto e poi fare a metà. Proprio come pensavo, esclamò Filip Filippovic battendo il palmo sulla tovaglia. Proprio come avevo supposto. E conosce anche il modo? Chiese Bormental pieno di interesse. Ma che modo è modo? Spiegò Sharikov, che dopo la vodka era diventato ciarliero. Non è una cosa complicata, altrimenti si ha che uno abita in 7 stanze e di calzoni ne ha 40 paia e un altro se ne va per strada a cercare cibo nei bidoni dell'immondizia. Quanto alle 7 stanze, lei sta naturalmente alludendo a me? Domandò Filip Filippovic socchiudendo gli occhi altero. Sharikov si rattrappì e tacque. Comunque è d'accordo, io non sono contrario a una spartizione. Dottore, quanti ne ha mandati via ieri? 39 persone, rispose immediatamente Bormental. Ah, 390 rubli. È una disgrazia da dividere in 3. Le signore, Zina e Daria Petrovna, non le conteremo. Lei, Sharikov, mi deve 130 rubli. Faccia la cortesia di tirarle fuori. Una bella faccenda, rispose Sharikov spaventandosi. E perché mai? Per il rubinetto e per il gatto, rugliò all'improvviso Filip Filippovic uscendo da quello stato di ironica tranquillità. Filip Filippovic, esclamò inquieto Bormental. Aspetti un poco. Per le porcherie che ha commesso e a seguito delle quali sono state interrotte le visite, è intollerabile. Quest'uomo, come un primitivo, salta per tutto l'appartamento, strappa via rubinetti. Chi ha ammazzato il gatto della vicina? Chi? Lei, Sharikov, l'altro ieri ha morsicato una signora sulle scale, rincarò Bormental. Lei si trova, urlava Filip Filippovic. Ma è stata la signora che mi ha dato una sberla sul muso, strillò Sharikov. E il mio muso non è mica a uso e consumo di chiunque. Perché lei le ha dato un pizzicotto sul petto, si mise a gridare Bormental rovesciando un boccale. Lei si trova al gradino più basso dell'evoluzione, lo sovrastò con la voce Filip Filippovic. Lei è ancora soltanto un essere in formazione, un essere debole nelle connessioni intellettuali. Tutte le sue azioni sono puramente animalesche. E lei, in presenza di 2 persone con un'educazione universitaria, si permette di dispensare con una disinvoltura davvero insopportabile certi pareri di portata cosmica e di altrettanto cosmica stupidità su come dividere ogni cosa. Lei che in questi stessi giorni si è ingozzato di polvere dentifricia. L'altro ieri, confermò Bormental. Dunque allora, tuonava Filip Filippovic, se lo ficchi bene in mente, lei deve stare zitto e ascoltare quello che le viene detto, senza metterci il naso. A proposito, perché si è tolto dal naso la pomata allo zinco? Lei deve imparare a sforzarsi di diventare un membro per quanto possibile accettabile dell'ordine sociale. A proposito, chi è stato il mascalzone che le ha rifilato questo libretto? Per lei sono tutti mascalzoni, rispose Sharikov spaventato, stordito dal duplice attacco. Posso provare a indovinare? Esclamò Filip Filippovic arrossendo furioso. Beh, che c'è di male? Me l'ha dato Schwonder. Non è un mascalzone, me l'ha dato perché mi evolvessi. Vedo bene come si è evoluto dopo Kautsky, gridò Filip Filippovic con voce stridula, diventando giallo. A quel punto premette con furia il pulsante sulla parete. Il caso odierno lo dimostra come meglio non sarebbe possibile. Zina! Zina! Gridò Bormental. Zina! Strillò lo spaventato Sharikov. Zina, pallida, accorse. Zina, di là in sala d'aspetto. È in sala d'aspetto? In sala d'aspetto, rispose ubbidiente Sharikov, verde come il solfato di rame. C'è un libretto verde. No, adesso lo bruciano, esclamò disperato Sharikov. È di proprietà statale, viene dalla biblioteca. Corrispondenza si intitola, come si chiama, di Engels con quel diavolo. Dritto nella stufa. Zina si voltò e volò via di corsa. Io questo Schwonder, parola d'onore, lo impiccherei al primo albero, esclamò Filip Filippovic infilzando con furia l'ala del tacchino. Quella sorprendente canaglia si è insediata in casa nostra come se fosse un ascesso. Non gli basta scrivere certi insensati articoli diffamatori sui giornali. Sharikov sogguardò con fare maligno e ironico il professore. Filip Filippovic a sua volta gli lanciò uno sguardo di traverso e tacque. A quanto pare in questo appartamento le cose andranno a finir male, pensò all'improvviso Bormental profetico. Zina entrò portando su un piatto tondo un babà rossiccio da un lato e rosato dall'altro e una caffettiera. Non lo mangerò, abbaiò subito Sharikov con fare minacciosamente sgradevole. E nessuno l'ha invitata a farlo. Si comporti come si deve. Dottore, la prego. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.